Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Anche oggi un nuovo appuntamento insieme all'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Saluto il presidente Carlo Garofolini che è con noi al telefono. Ciao Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Anno nuovo e 20 di novità che adesso tu Carlo ci racconterai. Sì, come hai detto Francesco, il 2016 sarà un anno importante perché ci saranno tanti cambiamenti, soprattutto cambiamenti che riguarderanno le famiglie. Certamente alcuni meno dolorosi, ma molti di questi sicuramente più significativi, dei quali come Adico vogliamo proprio iniziare a parlarne, proprio perché così le famiglie e gli italiani in generale sapranno un pochino cosa accadrà nei prossimi mesi e durante tutto l'anno. Ti chiederei Carlo di cominciare subito dal canone della RAI, perché poi era questo il periodo in cui si pagava. Sì, innanzitutto Francesco c'è il canone della RAI, come hai detto tu, che si inizierà a pagare da giugno 2016, non sarà di 113,5 euro ma di 100 euro, sarà un canone che verrà pagato con il ricevimento della bolletta dell'energia elettrica. Sarà una novità che sicuramente creerà, speriamo di no, ma molte perplessità, perché ci sono tantissime casistiche che siamo curiosi di vedere se queste casistiche riusciranno a non creare dei disagi per gli utenti. Però ecco, già bisogna dire a tutti che da gennaio quindi non dovremo pagare il solito bollettino di cui eravamo tanto abituati, ma dovremo attendere le bollette nei prossimi mesi. Questa cosa del canone che viene spalmato durante tutto l'anno sulle bollette dell'energia elettrica, per quest'anno si comincia da giugno per un discorso di tempi, di tempistica e di burocrazia di legge, e quindi ci troveremo i famosi 100 euro spalmati nelle bollette tra giugno e dicembre 2016. Sì, ricordiamo che il canone comunque, dei canoni sono esentati gli over 75 che hanno un reddito inferiore agli 8.000 euro annui. Poi per quanto riguarda importanti novità che vale la pena soffermarsi è che sparirà la tassa sulla prima casa, per cui quella che era stata una tanto agognata tassa finalmente sparirà, quindi non ci sarà più la TASI nel 2016. Però dobbiamo dare come brutta notizia il fatto che le donne da quest'anno lavoreranno praticamente 22 mesi in più. Quindi si dovrà lasciare la pensione non più a 63 anni e 9 mesi, ma praticamente a 65 anni e 7 mesi, mentre per le autonome chiaramente a 66 e un mese e arriveranno all'età di 66 e 7 mesi. Per cui chi non ha raggiunto questa età invece potrà andare con i contributi a 42 anni e 10 mesi e per i maschi e 41 anni e 10 mesi per le donne. Ecco, ci sono delle belle notizie che possiamo dare, oltre a queste più brutte. Le belle notizie, dopo i rincari di autostrade e trasporti, e dobbiamo anche un pochino ricercarle. Per esempio c'è il bonus per i giovani, che ricordiamo nel 2016 che i ragazzi che compiranno 18 anni avranno un bonus di 500 euro, sarà una specie di card, da quello che sembra venga adottata come metodologia, che permetterà di acquistare libri, andare ai teatri o ai musei fino al risolvimento di questo bonus. Purtroppo non si può comprare il computer come magari qualcuno ha pensato che nella scuola gli hanno permesso di poterlo fare, ma è solamente ed esclusivamente un bonus dedicato alla cultura, mentre sale di 1000 euro una tantum per l'acquisto di strumenti musicali per chi è iscritto ai conservatori. C'è poi l'autovelox che diventerà più severo, in quanto andrà a verificare non solo il superamento del limite di velocità, ma anche se l'assicurazione e la revisione dell'auto è in regola, e aumenterà di un giorno il congedo per il papà, che sarà obbligatorio anche se non consecutivo, passerà da un giorno a due giorni per ogni nascituno dal 2016. Continuano a rimanere gli sconti per chi assume, anche se purtroppo questi sconti verranno notevolmente ridotti fino a un massimo di 3.200 euro per un periodo di 2 anni, quindi ci sarà un incentivo all'assunzione che sarà molto ridotto rispetto a quello che è stato in vigore fino a quest'anno, che era di 3 anni e di 8.000 euro. E poi la brutta notizia, che invece qua come Adico siamo sui piedi di guerra, è questo famoso bail-in, che purtroppo nel caso di crisi bancarie sostanzialmente andranno a pagare i privati, cioè andrà a pagare il correntista che avrà quota eccedente 100.000 euro o chiaramente in caso di salvataggio di una banca interverranno gli azionisti o gli obbligazionisti. Io credo che chi ha più di 100.000 euro in contanti sul conto corrente sia abbastanza preparato su questo per spostarli e dividere il conto su più banche. Guarda, il caso di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza, che sono due casi importanti che stiamo seguendo in questi giorni, hanno dimostrato che persone che si sono trovate in questa condizione ce ne sono state moltissime, persone soprattutto che hanno investito la liquidazione e il risparmio di una vita, che dopo tanti anni di sacrifici si sono viste anche svanire per effetto non solo di eccedenze rispetto ai 100.000 euro, ma anche perché sono stati convinti ad acquistare delle obbligazioni per poterli rimettere un po' a riparo da quello che è una deflazione, come ricordiamo adesso, per esempio, sostanzialmente anche chi va a fare un botto riceve meno di quanto va a investire proprio per effetto di questa svalutazione che c'è. Certamente comunque è una norma che è nata in vigore da quest'anno, una novità che quindi anche il nostro paese ha adottato, noi siamo contrari come detto, ma sostanzialmente dobbiamo tenerne conto. E poi sale il tetto per il limite dei contanti da 1.000 a 3.000 euro, ricordiamo, e aumenterà un telepass fino a 1,50 euro al mese rispetto a quello che si pagava adesso, che era di circa 0,78 centesimi al mese. Ecco, io ricordo che molte delle cose che hai detto si trovano scritte e segnalate anche nel sito dell'associazione dell'Adico, quindi www.associazionedifesaconsumatori.it. Caro Carlo, ti ringrazio e ti do appuntamento alla prossima volta, quindi a giovedì, per risentirci con un altro argomento. Certo, ringrazio anche te Francesco, saluto di nuovo tutti gli ascoltatori e mi auguro che il 2016 presenti anche tante belle novità che avremo modo di approfondire nei prossimi collegamenti. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.